Le 18 meno un minuto. Radio Tour, the moving station. Through today till la 18. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Dietro la vetra, il vetro blindato, abbiamo il nostro bellissimo Bandieras, che sta facendo pure un applauso a se stesso. Anzi, lo facciamo noi, perché Gino Palombo sarà con noi anche fino alle 20, esatto, 8 o'clock this evening. Allora, questo qua in sottofondo è la fiesta che è di DJ Mendes, che, se posso dare un commento sul nostro new hit, è un tipo di misto tra il peggiore degli anni 80 e il peggiore di... non lo so, Gino, non lo so se gli piace o no. Non lo so se piace a voi, fatevi sapere. Allora, saremo insieme, ho detto, fino alle 20. Voglio ricordarvi di mettere il casco. Scendendo qua ho visto un incidente, meno male. Tutti i due ragazzi avevano il casco sulla testa, quindi non credo che si sono fatto malissimo, però vedo tantissimi ragazzi che stanno svincolando su via Caracciola, che stanno facendo proprio molto veloce sul motorino senza casco. Perché fate? Non capisco, io sono irlandese, ma non capisco. Andiamo con la musica, la bella musica, facciamo il sorriso, vai. Connessione in corso. And let's get loud, music of the summer, la battita del cuore. You're listening to Radio Tour, and Jennifer Lopez, incidentally, ha detto ultimamente che non crede di essere così sexy per essere bella, crede di essere sexy perché è sicuro di se stesso, e quello è il modo di essere sexy. Quindi ragazze, il modo è non prendere lampe dalla palestra, non fare. Il migliore modo è di acchiappare un uomo, vi dico io, e di guardarlo in faccia e di essere sicuro di voi stesso. E questo tutto qua. Allora, adesso ascoltiamo Sonica with Disco Labirinto on Radio Tour, the moving station. Grande, grande questo gruppo. World, yeah, bella musica dell'estate. Proprio domenica pomeriggio stiamo festeggiando qua alla fine della fine settimana. E stanno arrivando i messaggi, sono già arrivati un bel due. Abbiamo avuto Steffi che vuole salutare un amico stupendo, Antonio. E poi c'è Falchetta che ha scritto e chiesto di mandare un bacio al nostro bello Banderas. Ecco, ma qualcuno vuole mandare un bacio a me per caso? Insomma, vi do il numero è 0348 2438 8888. Vi prego di mandarmi un messaggio, un SMS. E adesso siamo arrivati al primo appuntamento di Just For You. Non proprio, dovete scegliere voi il brano da ascoltare. E come si fa? Si compone il numero che adesso vi do: 081 790 1411. Three young brothers from the United States of America, and this is This Time Around. Questa volta facciamo quello che facciamo. You gotta understand English, you gotta understand the lyrics to know exactly what it is. And now for Falchetta, we want to play Tiramancino with La Descrizione di un Attimo. The moving station, just for Super DJ alla grande. We're all dancing here, we're having fun. It's time to read some messages. Un paio di messaggi che sono arrivati sul nostro SMM box. OSM box, SMS, short messaging service. There's a lesson in inglese per voi. Fabiana ci ha scritto per dire: siete fantastici, super, meravigliosi, universale, ma soprattutto speciale. Vi voglio bene. Grazie Fabiana, questi messaggi ci fanno soltanto piacere. Allora, a proposito di universale, ci sono tutti quanti ascoltando in giro per tutta l'Europa in questo momento sul satellite. E quindi tranquillo, se voi andate all'estero, perché non trovate un bel albergo col satellite e noi vi accompagniamo in vostra ferie all'estero. Daniela vuole dire a Michela: mi piace tantissimo. E Steffi vuol dire: come mi chiamo? Io sono Fergal, così mi manda un bacio. Thank you Stefania, ti aspetto. Allora, Just For You, chiamateci. Mare, ho approfittato di questa domenica pomeriggio quando pensavo che magari il tempo non sarebbe stato tanto bello, ma infatti sono rimasto a letto, sono stato benissimo, insomma. E sicuramente dovunque che voi siete oggi stato, è dolce far niente, siete d'accordo? Questo è Lorenzo. E adesso Manuela per Manuela Do Lucia e The Love Connection with the Bomb. The moving station, just for you. Fate un po' in giro, e voi siete in giro per la città. Che state facendo? Siete tornando dal mare? Avete svegliato pure voi da poco? Non lo so, fatemi sapere però. Chiamatemi, non mi chiamate ancora perché si chiama per il Just For You, però mandami un messaggio sul GSM Box, così facciamo un po' di radio interattivo. È così che funziona la cosa. L'estate, pieno di cose da fare, vero? Che facciamo adesso? Radio Tour, the moving station. La radio dei grandi eventi. Dal 18 al 21 luglio, Pizza Mania, 4 giorni dedicati alla pizza, con momenti di spettacolo, moda e gastronomia. Pizza Mania dal 18 al 21 luglio ad Agerola, sull'incantevole costiera amalfitana. Radio Tour c'è. Il tour estivo di Gigi Proietti con il suo nuovo spettacolo A me gli occhi, mercoledì 19 luglio al Molo Angino, nel porto di Napoli. Info 081 761 1221, Radio Tour c'è. Il grande galà dei Piano Bar, mercoledì 19 luglio alla Birria Bavarese, Agnano, Napoli. Radio Tour c'è. Radio Tour. Little girls from America, yeah, you've seen them dancing around on your video screens, I hope. Messaggi che hanno raggiunto il nostro SMS box. SMS box, il numero è 0348 24 38 888. Perché non scrivete così? Vi faccio la dedica. Allora, Diego ci ha scritto, ha detto: siete gli unici a farmi divertire anche quando sono triste. Grazie Diego, questo ci fa molto piacere, bravo. E poi volevo sentire Let's Get Loud, che abbiamo messo un mezz'oretta fa, spero che l'hai beccato. Steffi ha scritto, ha detto: c'hai una bella voce, ma sei proprio irlandese o inglese? Inglese no, irlandese yes, thank you Steffi. Ok, andiamo. Here to the moving station. My name is Fergal Calvin at the microphone, and behind the glass we've got Banderas. It's Chino Palumbo spinning the disc for you this Sunday evening. Allora, sto parlando un po' di inglese per fare voi che siete studiando un po' di pratica, no? Il numero GSM is 0348 243 8888. How's that? Allora, manca un'ora, un bell'ora di musica che facciamo adesso dopo il puntora. Ladies and gentlemen, the clock. It's 7 o'clock. DMR De Bono, look out for the video of that one. Questo è il nostro new hit, è poco dopo le 19 di sera. Io sono Fergal Calvin al microfono e c'è Gino Palumbo in regia. Torniamo indietro. Connessione in corso. Qui in casa questo gatto va in giro contro i finestri a spattere queste mosche che entrano dentro, l'ammazza proprio. Non è una bella cosa per la mosca, però è un po' di piacere per me in quest'estate che ci sono tante mosche in giro. Sono molto tentato a chiamare il mio gatto e portarlo contro questo disco, The Sound of the Summer. L'abbiamo sentito al numero uno, il più richiesto da voi sulla classifica del Top 40, e lo risenteremo un'altra volta. Mo chiamiamo il gatto, dai. Messaggi che sono arrivati, allora, do Angelo per Mariana. E poi Silvia ha scritto: fantastici, ma potresti trasmettere anche un pizzico di musica punk rock? Vediamo che possiamo fare. Chiamatici per il Just For You tra poco. Non adesso, non adesso. Tu sei il fan numero uno di Korn. Articolo 31 adesso. Yesta! Looking for a good time, you know it's very hard to find. Allora chiamateci adesso sulle 081 790 1411 per richiedere il brano che volete sentire. Allora sul GSM Box abbiamo sentito da Steffi, che vuole sapere come scrivere il mio nome. Firenze, Empoli, Genova, Ancona, Livorno. Cos'è più semplice di così? Tony Braxton, he wasn't man enough. Sul Napoli sicuramente la bronzatura ci sarà. Man o non man, Tony Braxton. And it seems we've got somebody on the other end of the line. Sembra che c'è Elena che vuole parlarci, fare due chiacchiere. Ciao. Ciao Elena, buonasera, come stai? Ciao, bene, tu? Ok, da dove stai chiamando? Chiamo da Napoli. Da Napoli, bello, e che hai fatto oggi? Ma oggi niente di particolare, sono stesa un po' con mio padre, faccio una passeggiata con mio padre. Ah, allora è dolce fare niente, eh? È uscito il sole finalmente a Napoli, che pensi di questo tempo che sta succedendo in tutta Europa? Un po' incerto, speriamo che si aggiusti. Speriamo, sì, sicuro, sicuro. Senti, vuoi salutare qualcuno? Ma saluto la mia amica Stefania. Uh-huh. E vabbè, il mio ragazzo Marcello. Ok, grazie. Allora, ci puoi annunciare il brano che vuoi sentire? Sì, allora, su Radio Tour, Mada Sam con Don't Worry. In un'altra Sound of the Summer è la musica delle chitarre che suonano sulla spiaggia di notte, di sabato notte. Sapete com'è che delle persone imparano della bella musica con la chitarra, mettono le belle corde, fanno la bella musica tutti a cantare insieme. E chiaramente una di queste cose che dovete fare è canzoni italiane, nuovi canzoni italiani, nuovi cordi pure. Qualcuno mi può dire quali sono queste corde che facciamo sentire adesso di Neck? Un I? Un A? Ah, voi usate il Do Re Mi. Va bene, che è? Ci sei tu. Ho provato a non amarti, è GSM Box sta impazzendo, ci sono molti messaggi da leggere. Allora, and if you feel tired, think about all the people that love you. Bello questo, grazie di questo, però non ha firmato, un po' di inglese. Dice anche, let's have a party, are you in pleasure with us? A party? Io ci sono sempre per le feste, basta chiamarmi, lasciami il numero di telefono, mi metto in contatto io, non vi preoccupate. E poi una domanda da Steffi, secondo te uno che è stato bocciato per 7 materie perde solo tempo alle scuole, vero? Non lo so, sicuramente la scuola ha la sua funzione, però ci sono altre cose, questo è vero. E Radio Tour regala a Stefania un cappellino alla pescatore firmato Pendium. Pendium, la moda che ti mette in movimento. E per Stefania facciamo sentire Stop di John Secada. Again, non incontriamo mai più, ma perché così negativo? Incontriamoci, yes, presto speriamo. E questo Jesse vuole dedicare a sua dolce cara mammina. E questo messaggio ci ha mandato, grazie Jesse, al GSM Box, il 0348 24 38 88. Mancano più o meno 10 minuti alla fine del programma, quindi per gli ultimi messaggi mettetevi a scrivere adesso. Never meet, non incontriamoci. Io spero proprio di incontrarci presto, perché abbiamo un paio di grandi eventi da segnalarvi. Radio Tour, The Moving Stage. La radio dei grandi eventi. Dal 18 al 21 luglio, Pizza Mania, 4 giorni dedicato alla pizza. Sono momenti di spettacolo, moda e gastronomia. Pizza Mania dal 18 al 21 luglio ad Agerola, sull'incantevole costiere amalfitano. Radio Tour c'è. Il tour estivo di Gigi Proietti col suo nuovo spettacolo A me gli occhi, mercoledì 19 luglio al Molo Angino nel porto di Napoli. Info 081 761 1221. Radio Tour c'è. Il Gran Galà di Del Piano Bar, mercoledì 19 luglio alla birreria bavarese Agnano, Napoli. Radio Tour c'è. We're going to say goodbye to you. Prima vogliamo lasciare un paio di messaggi, cioè non lasciarli scappare. Allora, Andrew84 ci ha scritto questo bellissimo messaggio. Tutti quelli che soffrono, non preoccupatevi. Dopo le tempeste dovrà pure uscire il sole. Vi voglio bene tutti. Questo è un bellissimo pensiero per la fine della fine settimana. Inizia una settimana di sole bellissimo. Saremo a posto. Questa settimana. Allora anche Steffi ha detto, la capolina era per me? Sì, era per te. Salutiamo, sono Fergal Kavna, grazie a Gino dietro la quinta, alla prossima. Le ore 20.